Voli tempestosi. Pim volava. Il suo respiro era pieno, la vista chiara. L'odore dell'aria era piacevole, fresco, pulito. Il vento sulla pelle gli era amico. La sua percezione si espandeva all'infinito, in ogni direzione. E provava una sensazione di grande gioia. Volare gli piaceva sempre più. Era in grado di fare anche le acrobazie più difficili, e senza alcuno sforzo. Poteva guidare il volo non solo col corpo, allungando la muscolatura per accelerare e muovendo leggermente mani e piedi per andare in ogni direzione, ma anche col respiro, e col desiderio. Inspirando, poteva rallentare e ricaricarsi di buona energia. Espirando, sfrecciava veloce nelle direzioni scelte dalla sua mente. Gli bastava desiderare di fermarsi a osservare il panorama dall'alto, per trovarsi immobile in cielo a godere la sensazione straordinaria di essere testimone, e parte integrante, di tutto quello che c'era. Mentre si abbassava veloce per uscire dallo stallo e riprendere energia, gli vennero in mente pensieri di tempi passati, ricordi per lungo tempo chiusi in un cassetto della sua memoria. Una parte della sua vita che gli sembrava tanto lontana. Immagini di quando era giovane e aveva un grande desiderio di esplorare le possibilità della vita. Ripensò alla confusione che spesso lo assaliva, e alle gioie e ai dolori così mischiati tra di loro nelle giornate di allora. Un tempo confuso e stressante, in cui aveva spesso l'impressione di essere al centro di una continua tempesta, circondato da energie stancanti, buie, fredde, pesanti. Era grato per questo turbinio di pensieri, perché sentiva che era arrivato il momento di riportare in superficie tutte quelle sensazioni, per rivederle con una prospettiva diversa. E gli piacque l'idea di parlarne a Kim ed Alia, alla casa, e alle guide. Immerso in quei pensieri, si rese conto che stava perdendo il contatto col volo. Decise che era proprio il caso di concentrarsi. Alzando gli occhi, vide all'orizzonte una nuvola nera che gli veniva incontro molto veloce e che diventava sempre più grande. Quell'immagine riuscì a far sparire in un istante tutta la sicurezza che aveva provato fino a poco prima. Una paura gigante si infilò nei suoi pensieri, rendendo il suo respiro scomposto e pesante. Perse il controllo e cominciò a sbandare. Cercò di sfuggire alla tempesta che stava arrivando girandosi e scappando nella direzione opposta, per allontanarsi. Ma il suo volare era troppo lento e la nuvola nera era sempre più vicina. Il vento freddo mischiato a pioggia gli arrivò addosso. Prima da dietro, facendolo sbandare e scendere in picchiata senza controllo. Cercò di riprendere quota per trovare su in alto un po' di calma di vento e per riprendere fiato. Una raffica violenta lo colpì sul fianco. Provò a compensare quella spinta feroce, ma capì che non ce l'avrebbe fatta, perché la tempesta manteneva una forza continua e violenta contro la quale era del tutto impotente. In quello stato di panico vide all'orizzonte un corvo reale e un falco che gli venivano incontro. Il corvo reale si piazzò immediatamente sotto di lui e stabilì un contatto con sua mente invitandolo a girarsi, a non scappare, ad andare in direzione della nuvola nera. Il falco gli si mise davanti per guidarlo. Tutti e tre si diressero verso la nuvola nera, che era diventata enorme, sferzata da una pioggia violenta e illuminata a tratti dal bagliore accecante dei fulmini. Pim pensò che quello che Corvo e Falco gli stavano chiedendo di fare non aveva senso, che era completamente irrazionale. Ma li sentiva molto vicini e la vibrazione di sicurezza e di pace che emanavano era contagiosa. Percepì un pizzicore al centro della fronte, e si rese conto che il Corvo reale gli stava comunicando qualcosa. Era un invito a collegare l'attenzione al respiro. A praticare un'inspirazione profonda e un'espirazione lenta e più lunga. E a guardare con occhi nuovi la tempesta. Seguì le istruzioni. La tempesta gli apparve esattamente come prima, gigantesca e spaventosa, ma non gli provocava più lo stesso terrore. Di nuovo il corvo si collegò con la sua mente, e gli sussurrò che non c'erano alternative, che doveva entrare nella tempesta. Impossibile, pensò Pim rivolto al falco. Ma come ti viene in mente un'idea così folle? Entrare nella tempesta vuol dire essere travolti e soffrire le pene dell'inferno. L'inferno è un'invenzione, della mente una creazione. Ti consiglio di pensare, a che cosa vuoi creare? La canzone arrivò direttamente nella sua mente, perché le sue orecchie potevano udire solo il rimbombare potente del vento. Siamo noi che pensiamo. Sono i nostri pensieri di paura che creano nuvole nere. E più pensiamo pensieri di paura più le nuvole nere crescono diventando enormi e spaventose, continuò a dirgli il falco con grande calma e leggerezza. Quello che ti succederà quando entri nella tempesta non lo sai, perché non ci sei mai voluto entrare. Ma c'è una prima volta per tutto, credimi. E direi che questa è la volta buona. Mi sembri pronto, ma devi essere tu a decidere, naturalmente. Pim guardò in direzione del falco, col desiderio di dirgli chiaramente che non era affatto d'accordo, ma scoprì che non c'era più, e che anche il corvo era sparito. Era appena in grado di controllare il suo volo, e governava la velocità e la direzione con grande difficoltà. «Lasciarmi solo proprio ora, quando ho più bisogno di aiuto», sibilò. Capì però che era consapevole del suo respiro e che concentrarsi sull'aria che entrava e usciva dai polmoni lo aiutava a vedere la scena in modo nuovo, un modo in cui la paura c'era ancora, ma non lo dominava. Così decise di entrare nell'ignoto, affrontando la tempesta. All'inizio fu un volo cieco. Una nebbia fredda e fitta lo circondava. Non c'era altro da fare che fidarsi e affidarsi. Per uno come lui, abituato a controllare ogni minimo particolare, era un'esperienza tutt'altro che facile. Il suo corpo era immerso nel buio e la grandine picchiava violenta sulla sua pelle indifesa. Quel picchiettare insistente faceva male, ma non provocava tagli o ferite. Anzi, creava un po' di calore che gli faceva compagnia in quel tempo senza gioia. Malgrado il frastuono assordante del vento, capì che facendo attenzione poteva sentire il suo respiro, e che essere collegato al ritmo dell'inspirare e dell'espirare gli faceva vivere quell'esperienza con un po' di distacco, tenendo distante la paura. Il tempo passava lento. Il buio diventò un po' meno buio e il gelo un po' meno gelo. Forse erano i suoi occhi che si erano abituati al buio. Forse era il suo corpo che si stava abituando al gelo. Alla fine del tunnel, lontano lontano, ma sempre un po' meno lontano, intravide una luce al di là della nuvola nera. La speranza si infilò nel suo cuore. E finalmente arrivò l'ora del nuovo. Tese ogni suo muscolo, ogni fibra del suo essere. Uscì alla luce. E volò da grande aviatore. Azzurro, finalmente. Il cielo. Il sole che riscaldava la pelle. Aria. Buona, pulita, che entrava nei polmoni, che portava pace. Ora volava veloce, verso l'alto, sempre più in alto, e da lì si godeva la meraviglia delle nuvole, degli alberi, di quella terra piena di luce, delle case, del mare lontano, del fiume, dei cavalli che galoppavano felici, e dei cani sdraiati a schiacciare un pisolino con un occhio aperto a osservare le pecore. Mentre volava di nuovo felice, all'orizzonte apparvero due puntini che gli corsero incontro veloci. Erano il corvo e il falco. «Ciao, bravissimo aviatore, sei di nuovo uno splendore. Nella nuvola sei entrato, eri molto spaventato. Esperienza di paura, nella notte buia e dura. Il terrore hai provato, e sei stato abbandonato. Notte buia senza fine, non san mica noccioline. Notte nera senza luce, dal sapore amaro e truce». Che il falco potesse cantare Pim non se l'aspettava proprio. «Sentirmi dire che sono uno splendore mi sembra un'esagerazione», rispose. «Invece è vero che me la sono vista davvero brutta. Dalla nuvola sei uscito, non hai perso neanche un dito. Ora sai che cosa è. L'esperienza è dentro di te. Tunnel lungo, da paura. Però è stata un'avventura. Il terrore dell'ignoto? Non è mica un maremoto. È il futuro che ti aspetta, molto bello, dammi retta. Io nel nero vedo bene, e so quello che contiene. E ti dico dolcemente, da temere non c'è niente». Questa volta a cantare era stato il corvo, e Pim ebbe l'impressione che si stesse divertendo da morire. «Facile per voi parlare così», disse. «Chi si è infilato nella tempesta sono stato io, e voi due siete spariti. E tu corvo nero, che sei nero non a caso e che nel nero vedi chiaro, dimmi che contiene di così interessante la nuvola nera che io non riesco a vedere. Per me c'era solo tanto freddo, e una tristezza senza fine. Ti diciamo chiaramente, da temere non c'è niente. C'è invece un dono grande, l'universo che si espande. Che si espande grazie a te, se ci provi, un dono c'è. Sei protetto, sei guidato, infinitamente amato». Le voci del falco e del corvo formavano un duetto incredibilmente armonioso, con una vibrazione molto elevata. Finito il loro canto iniziarono a scendere in picchiata invitando Pim a seguirli. Volarono tutti insieme veloci verso terra passando attraverso nubi leggere che scoppiarono a ridere fragorosamente per il solletico. Superato lo strato di nuvole apparvero le case. Pim si guardò intorno e il suo cuore si riempì di gioia vedendo la dimora di Kim ed Alia. Il corvo e il falco lo salutarono sorridendo, e con una virata stretta schizzarono velocissimi verso l'alto. La casa lo aveva riconosciuto, e manifestò la sua felicità con una vibrazione di allegria. Per dargli il benvenuto aprì il tetto, e Pim atterrò direttamente nella camera da letto che gli era stata riservata. La sensazione del suo corpo sul materasso morbido e accogliente fu molto piacevole, ma il riposo di Pim durò poco. Dalle finestre aperte entrò, veloce e leggero, uno sciame di farfalle dai mille colori. Le loro ali vibrando all'unisono crearono un cuscino d'aria che lo sollevò e lo portò giù per le scale, direttamente in salone, dove la sua poltrona era pronta ad accoglierlo. Si trovò insieme ad Alia e Kim, anche loro seduti sulle comode poltrone di fronte al camino, in cui un fuoco dalla fiamma rossa, calda e brillante, scoppiettava allegramente. Le farfalle entrarono in uno specchio dalla cornice dorata al lato del camino, e quando furono dall'altra parte si girarono tutte insieme per osservare curiose la scena. Pim guardò stupito lo specchio, che ora rifletteva sì le immagini, ma le colorava meravigliosamente con le mille tinte delle ali delle farfalle. Bentornato mio aviatore, ti saluto con calore. Eri bello spaventato, ma alla meta sei arrivato. Sei sorpreso per l'aiuto? Te lo meriti, è dovuto. Sei al sicuro nel tuo volo, sei guidato, non sei solo. Sei protetto in ogni ora, ma non lo capisci ancora. Stai imparando la lezione, esperienza e evoluzione. Dopo un volo un po' agitato, cosa è meglio di un gelato? A che gusto vuoi sapere? Beh, non certo con le pere. Molto meglio al cioccolato. Con la panna e un po' ghiacciato. Il soffitto del salone si spalancò e dal cielo stellato tre coni di biscotto dal profumo delizioso scesero a gran velocità posandosi dolcemente in mano ad Alia, Kim e Pim. Ancora attraverso il soffitto aperto entrò poi una cascata di cioccolata calda fondente, che si divise e riempì alla base la punta dei coni. A quel punto palline di cioccolato gelato con scaglie di nocciola scesero volteggiando nella stanza e si infilarono perfettamente nei coni. Per completare l'opera iniziò a nevicare, ma erano fiocchi di panna che finirono esattamente sopra le palline di cioccolata. Tutti capirono che non c'era tempo da perdere. In silenzio perfetto cominciarono a leccare golosamente i gelati e non fu pronunciata parola fino all'ultima goccia del cioccolato fondente, che era ancora tiepido in fondo al cono. Viso e mani, che figura! Da lavare, con gran cura. Poi sciacquatevi la bocca. L'acqua fresca è nella brocca. Il canto della casa aveva un'energia divertita e ridente, senza alcuna traccia di rimprovero. Tutti avevano voglia di ripulirsi dai resti appiccicosi del gelato, e quindi seguirono molto volentieri il suo consiglio. Finalmente pulito e rinfrescato, Pim si rivolse alla casa e disse, a proposito del mio volo, non è mica andata come l'hai cantata tu, sai. È vero che sono entrato nella nuvola nera, ed è vero che ero molto spaventato. Ma tu hai detto che ero guidato e protetto. Beh, non è vero. Il corvo e il falco, che mi hanno aiutato all'inizio, mi hanno abbandonato proprio quando avevo più bisogno di loro. Non mi pare quindi che sono guidato in ogni ora, non credi? La risposta della casa arrivò subito, e in rima. Il nebbione può accecare, l'apparenza può ingannare. In quel tunnel sei entrato, ma da solo non sei stato. In quel tunnel così nero, vuoi vedere un corvo nero? O un falco, vista acuta, che sparisce a tua insaputa? Io non credo che tu puoi, anche se ci provi e vuoi. Eri pronto per la prova, per un'esperienza nuova. Se ti sei sentito solo, è per migliorare il volo. Le tue guide san con te, ci san sempre, credi a me. Pim era pronto a rispondere per le rime alla casa, ma si accorse che accanto ad Alia e a Kim sedevano ora, sdraiati sulle loro comode poltrone, anche Grisenda e Ximenes, le sue guide, che, era pronto a giurarlo, fino ad un attimo prima non c'erano. Grisenda, che indossava una bella tunica di colore grigio ardesia con un cappuccio nero con sottili striature rosse, gli sorrise allegramente. Ximenes, che indossava un elegante completo nero lucido, stava pulendo la manica della giacca da qualcosa che c'era rimasta impigliata. Quel qualcosa era di color nero e a forma di piuma, e discese roteando lentamente sul pavimento. A Pim sembrò proprio la piuma di un corvo. Cercò di raccoglierla per guardarla meglio, ma quando ci provò si rese conto che era improvvisamente sparita. La magia io posso usare. Mille trucchi so inventare. La filastrocca che le sue guide gli avevano cantato tornò in mente a Pim, che si chiese se per caso la piuma non fosse la prova delle magie di cui le guide erano capaci. Guardò con un'aria interrogativa Ximenes, ma fu ricambiato da uno sguardo innocente. Insomma, secondo te mi sono inventato tutto, disse Pim rivolgendosi alla casa. Tu credi che non sono mai stato abbandonato e che ero in compagnia delle mie guide anche dentro la nuvola nera? A rispondergli non fu la casa, ma Grisenda. Molto bravo tu sei stato. La paura hai superato. Ti ripeto che ci siamo, ti ridico che aiutiamo. Noi però limiti abbiamo, senza te nulla possiamo. Che vuoi dire? Chiese Pim. Quali limiti avete? Questa volta Fuximenes sa rispondere. Noi ci siamo ed aiutiamo, ma di certo non scegliamo. Solo tu scegliere puoi, e tu hai scelto, senza noi. Tu hai scelto di provare, in quel buio di volare. E fu Grisenda a completare la canzone. Se tu scegli noi ci siamo, ti guidiamo e proteggiamo. Non ci vedi e avanti vai? Esperienze tu farai. Confidenza aumenterai, la paura vincerai. Siamo sempre insieme a te, luce o buio, credi a me. Ximenes tirò fuori dalla tasca della sua elegantissima giacca un gran fazzoletto, bianco come la neve, con il bordo a merletti ricamati con sottili fili di seta azzurra. Lo aprì lentamente e lo sventolò allegramente verso l'alto. Una piuma di corvo, nera e lucida, volteggiò nell'aria e ricadde esattamente nelle mani di Pim, che la guardò ridendo e rivolto alle sue guide cantò. Piuma nera che riappare, ce l'ho in mano, ed è reale. Siete sempre insieme a me? Io ci credo, grazie a te. Se nel dubbio ricadrò, questa piuma toccherò. Le guide guardarono Pim sorridendo. Volare ti sta facendo proprio bene, disse Grisenda, vediamo con piacere che ora ti piace anche giocare, e cantare. Questo forse vuol dire che sei pronto per nuovi voli e per altre sorprese. Te la senti? Chiese Ximenes potresti di nuovo fare voli tempestosi, che mettono paura, ma che fanno crescere. E la crescita è la ragione del nostro viaggio sulla Terra, è la nostra missione su Gaia. La casa, che era stata in silenzio per un tempo insolitamente lungo, con voce delicata iniziò il suo canto. Nei tuoi voli incontrerai tutto quello che vorrai. Ogni volo porta un dono, c'è sì il buono, ma anche il tuono. Senza voli non c'è gioia, è una vita con la noia. Quindi ti domando anch'io, la tua scelta è volo o oblio? Ad essere sincero, rispose Pim, di voli tempestosi ne avrei abbastanza. Sento però che c'è una parte di me che dice basta, ma anche un'altra parte che desidera scoprire, crescere, espandersi. Fu ancora la casa a intervenire con una voce molto tenue, che conciliava il sonno. Dopo un volo clamoroso, per te è tempo di riposo. Il tuo sogno sta svanendo, il tuo volo sta finendo. Altri voli tu farai, altri sogni sognerai. Te lo dico forte e chiaro, tu per noi sei molto caro. Pim era molto stanco, ma felice. Guardò il cielo stellato e capì che la casa aveva ragione. Il suo sogno stava svanendo. I suoi occhi si chiusero e passò dal sogno al sonno.